e che avrebbe dovuto usarla solo per le persone speciali. Il pacco arrivava da un certo Toby che nella lettera di accompagnamento le spiegava di essere stato un amico intimo dello zio Finn e le chiedeva di poterla incontrare. All'inizio June prova un sentimento di rabbia e di gelosia perché si rende conto di non essere stata l'unica persona importante per lo zio. Capisce che Toby era il compagno dello zio Finn e si convince che sia stato proprio lui a trasmettergli l'AIDS. Poi però si rende conto che la teiera che aveva ricevuto rappresentava il desiderio dello zio di fare incontrare le persone che nella vita aveva amato di più e decide quindi di andare all'appuntamento alla stazione ferroviaria. Sbirciai oltre il parapetto, attenta a non sporgermi troppo. Non ero neppure sicura di riconoscerlo, invece sì, lo vidi subito. Era seduto su una panchina in fondo al binario, le ginocchia raccolte contro il petto, le dita che giocherellavano con le stringhe. Si vedeva che era magro, ma non magro da AIDS, non come Finn negli ultimi tempi. Sembrava uno che era sempre stato magro. Rimasi ad osservarlo per un po'. Ogni tanto alzava improvvisamente la testa e si guardava attorno, come se fosse spaventato. Come se sapesse che ero lì da qualche parte. Ogni volta che lo faceva, io saltavo indietro per non farmi vedere. Toby sembrava più giovane di Finn, più giovane di mia madre e mio padre. Dovendo tirare a indovinare, avrei detto che era sulla trentina, ma non sono brava in queste cose. Si alzò e si mise a camminare su e giù lungo il binario. Aveva uno zainetto azzurro e portava jeans, scarpe da ginnastica e un maglione grigio pesante con una sciarpa di lana rossa. Ma era senza cappotto. Non sembrava niente di speciale e mi chiesi come mai uno come Finn uscisse con lui. Fece scorrere lo sguardo lungo il binario, poi diede un'occhiata all'orologio. Sentì il rumore del treno in arrivo. Toby controllò di nuovo l'orologio e poi, prima che avessi il tempo di pensare, guardò dritto verso il punto dove stavo io. Saltai indietro prima che mi vedesse e in quel preciso istante decisi che non sarei andata laggiù. Alla fine non sarei andata a conoscere Toby, non riuscivo a convincermi a farlo. Che potevo dirgli? No, non ci sarei andata. L'avrei guardato dall'alto, avrei aspettato che il treno se lo portasse via. Avrebbe afferrato il messaggio. Tornai piano piano al mio posto e guardai giù. Quello che vidi fu Toby che guardava dritto verso di me, proprio verso il punto dove ero io. Con una mano si schermava gli occhi e quando mi vide, allargò le dita dell'altra e le alzò nel più impercettibile dei saluti. Prima di poter decidere diversamente, feci altrettanto. Sollevai una mano appena oltre il parapetto e allargai le dita. Poi sorrisi. Era un sorriso appena accennato e mi venne fuori senza volerlo. Non so come avevo potuto sorridere all'uomo che aveva ammazzato Finn, ma lo feci e sembrò segnare qualcosa. Era come se quel sorriso mi avesse vincolato, come se fosse una specie di impegno che non mi permetteva di fare altro che scendere quella rampa di scale fino al binario. Toby mi stava venendo incontro con un sorriso che non era uno di quei sorrisi da adulti, troppo grandi e senza pensieri dietro. Era un sorriso vero, come se fosse così contento di vedermi che quasi non ci credeva. «Vieni», mi disse come se ci conoscessimo già. La carrozza che scegliemmo era quasi deserta. Toby indicò un gruppo di 4 sedili vuoti, 2 di fronte agli altri 2. «Qui?» Annuì e ci mettemmo a sedere. Toby verso il corridoio, diagonalmente opposto a me. Le ginocchia gli sporgevano nello spazio fra noi, costringendomi a spostare le mie verso il finestrino per non toccarlo. «Grazie per essere venuta», disse. Mi accorgevo che stava cercando di incrociare il mio sguardo, ma io non volevo. «Di niente», dissi continuando a guardare fuori dal finestrino. «Non hai mica paura o roba del genere, vero? Perché lo so che effetto devo averti fatto al telefono e so cosa pensa di me la tua famiglia. E stavo facendo di tutto per trovare il modo di parlare con te». «No, non mi fai paura». «Parlava sempre di te», disse Toby. «Lo sai, vero?» Sentivo che stavo cominciando a sorridere e a diventare rossa e mi voltai in fretta. Poi capii cosa voleva dire. Io non ero un segreto. Toby sapeva di me. «Finn ti considerava brava, brava sul serio». Toby tirò giù la gamba cavallata e si chinò verso di me. «Finn diceva che l'arte non è disegnare o dipingere un vaso di frutta perfetto. L'arte sono le idee. E tu, diceva, hai talmente tante buone idee da bastarti per una vita». «Diceva così?» Arrossì di nuovo e distolsi lo sguardo da Toby, girandomi verso il finestrino. Per un attimo sembrò che Finn fosse su quel treno con noi. Come se Toby avesse un piccolo fantasma di Finn appollaiato sulla spalla che gli suggeriva esattamente cosa dirmi. Non volevo lasciarmi incantare dalle sue belle parole, ma era difficile evitarlo. Era difficile non voler ascoltare per sempre tutte le cose belle che Finn aveva detto di me. alzai le spalle. E poi, prima di potermene rendere conto, cominciarono a bruciarmi gli occhi. Sentii spuntare le lacrime e più cercavo di trattenerle, più quelle volevano uscire. Mi voltai, ma Toby mi posò una mano sulla schiena. Mi scansai. Respirai a fondo e più lentamente che potevo, finché sentii che stavo tornando alla normalità. «Su, andrà tutto bene», disse lui. Quando il treno giunse alla Grand Central Station, scendemmo entrambi. Mi ringraziò di nuovo per essere venuta, tipo altre 20 volte, e mi disse che sperava non fosse l'ultima volta che ci vedevamo. Aprì lo zaino e mi porse un sacchetto di carta marrone. «Da parte di Finn», spiegò chinandosi verso di me e ritirandosi subito indietro. «E ce ne sono ancora di cose». Presi il sacchetto senza guardarlo, come se non fosse importante. «Beh, allora perché non le hai portate, se ce ne sono ancora?» Toby sembrò imbarazzato. Si torse le mani dietro la schiena e abbassò lo sguardo sul pavimento lercio della stazione. «Perché temevo che se te le avessi date tutte non saresti più tornata. E io ho bisogno, voglio che tu torni ancora. Lo desidero tantissimo». Squadrai Toby dall'alto in basso. Se ne stava lì con le spalle curve, le dita che giocherellavano con un filo che gli pendeva dal bordo del maglione, i grandi occhi scuri che mi fissavano come se la mia risposta gli importasse davvero. «Io credo che potrei darti un colpo di telefono, una volta o l'altra, se non ho di meglio da fare». Gli si illuminò il viso, annuì, e mi tese la mano come se volesse stringere la mia, ma io non la afferrai. «Favoloso, quando vuoi, d'accordo? In qualunque momento, io ci sono sempre, e se mai ti servisse qualcosa, qualunque cosa, intendo. Dico sul serio». Fu così che ci lasciammo. Toby mi chiese 5 o 6 volte se ero sicura di voler tornare a casa da sola, e quando ne fu finalmente convinto, ci salutammo. Lui si avviò sotto l'arco verso l'uscita, poi si fermò e si voltò a guardarmi. Sorrise e mi salutò con la mano e fece il gesto di telefonare con una cornetta invisibile. Poi indicò a me. Annuì perché se ne andasse, poi feci il biglietto per tornare a casa. Usai i soldi che mi ero portata dietro, i miei, non quelli che mi aveva appena dato Toby. Non guardai più verso di lui. Rimasi sul marciapiede a fissare i binari sudici di Morchia in attesa del treno, pensando che probabilmente non lo avrei più rivisto. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Carol Rifka Brunt, Promettimi che ci sarai. PM, 422 pagine, €17,90. Janet Walls è una giornalista americana di successo che per 20 anni ha tenuto nascosto il suo passato, fino a quando nel 2005 pubblica il romanzo autobiografico Il Castello di Vetro, che nel corso degli anni ha venduto oltre 4 milioni di copie e dal quale sta per essere tratto un film interpretato da Jennifer Lawrence, la protagonista di The Hunger Games. Il libro racconta l'infanzia e l'adolescenza della scrittrice, vissute all'interno di una famiglia quantomeno insolita. I genitori di Janet e dei suoi fratellini, Lori, Brian e Maureen, sono persone colte, che hanno scelto però di vivere completamente fuori dagli schemi. Abitano in una roulotte e nei primi 5 anni di matrimonio cambiano residenza per ben 27 volte, spostandosi da una città all'altra quando il padre, che spende in whisky i pochi soldi che guadagna, è costretto a fuggire dai creditori. La madre è laureata, si dedica occasionalmente all'insegnamento, ma puntualmente abbandona il lavoro per rivolgere le sue attenzioni alla pittura, una passione che però contribuisce poco o nulla al bilancio familiare. Non si cura dei figli perché vuole che imparino ad arrangiarsi. È convinta che la fame temperi il loro spirito e che le occasionali ferite che si procurano non vadano curate, perché così il loro corpo riesce a fortificarsi. Pur essendo totalmente irresponsabili, i genitori di Janet amano i loro figli, anche se in un modo del tutto particolare, e l'infanzia della scrittrice si consuma tra gioie e dolori, tra pochi momenti di fortuna e lunghi periodi di estrema povertà. Solo crescendo, Janet capisce che la rovina della famiglia sta soprattutto nell'incapacità del padre ad uscire dalla dipendenza dall'alcol. Ma non è facile per lei liberarsi dal fascino di un padre carismatico, brillante e dotato di idee grandiose, come quella di costruire un castello di vetro in mezzo al deserto. Un uomo che insegna ai figli come uscire da ogni difficoltà e che spiega loro che anche la povertà può trasformarsi in ricchezza. Noi festeggiavamo il Natale, ma di solito dopo il 25 dicembre. quando si trovavano nastri e carta da regalo praticamente nuovi che la gente aveva buttato via e alberi di Natale abbandonati sul ciglio della strada, con ancora quasi tutti gli aghi e persino qualche ninnolo argentato appeso. Mamma e papà ci regalavano un sacchetto di biglie o una bambola o una fionda, comprati a prezzo ribassato a una svendita post-natalizia. Papà perse il lavoro in miniera dopo una lite con il caposquadra e quell'anno, quando il Natale arrivò, non avevamo neanche un soldo. La sera della vigilia, però, papà portò ciascuno di noi bambini nel deserto, uno alla volta. Io mi ero avvolta in una coperta e quando arrivò il mio turno mi offrii di dividerla con lui, ma rispose di no. Il freddo non lo aveva mai disturbato. Avevo 5 anni, mi sedetti accanto a mio padre e guardammo il firmamento. Papà amava parlare delle stelle. Ci spiegava come ruotassero nel cielo notturno con la rotazione della Terra. Ci insegnò a riconoscere le costellazioni e a navigare usando la stella polare. Quegli astri splendenti, amava dire, erano un lusso speciale per gente come noi che viveva là fuori nel deserto. I ricchi di città abitavano in appartamenti eleganti, ma l'aria che respiravano era così inquinata che non riuscivano nemmeno a vederle le stelle. Avremmo dovuto essere pazzi per voler fare cambio con uno qualsiasi di loro. «Scegli la tua stella preferita», disse papà quella notte. Mi disse che avrei potuto averla per sempre, che era il mio regalo di Natale. «Non puoi regalarmi una stella», dissi io. «Le stelle non sono di nessuno». «Appunto», ribatté papà, «non sono di nessuno. Devi solo rivendicarle prima che lo faccia qualcun altro, come quel tipo italiano, Colombo, che rivendicò l'America per la regina Isabella. Il principio è esattamente lo stesso». Ci pensai su e realizzai che aveva ragione. Aveva sempre ragione in questo genere di cose. «Potevo avere qualunque stella desiderassi», disse papà, «tranne Beetlejuice e Rigel, perché Lori e Brian li avevano già rivendicate per sé. Guardai le stelle e cercai di immaginare quale fosse la migliore. Ce n'erano centinaia, forse migliaia e persino milioni che lampeggiavano nel limpido cielo del deserto. Più si restava a guardare, più l'occhio si abituava al buio, più stelle apparivano, rivelandosi gradualmente una dopo l'altra. Una in particolare ad ovest, sopra le montagne, ma nella parte bassa del cielo, splendeva più luminosa di tutte le altre. «Voglio quella!» dissi. Papà sorrise. «Quella è Venere». «Venere era soltanto un pianeta», continuò, «e piuttosto piccolo rispetto alle vere stelle. Sembrava più grande e più luminosa perché era molto più vicina. Povera vecchia Venere, non emetteva nemmeno una luce tutta sua», disse. «Splendeva solo di luce riflessa». Mi spiegò che i pianeti brillavano perché la luce riflessa era costante e le stelle lampeggiavano perché la loro luce pulsava. «Mi piace lo stesso», dissi. Avevo ammirato Venere anche prima di quel Natale. La si poteva vedere al calar della sera splendere a ovest sull'orizzonte. E se ci si alzava presto, la si poteva vedere di nuovo al mattino, dopo che tutte le stelle erano scomparse. «Che diavolo!» disse papà. «È Natale! Puoi avere un pianeta, se proprio vuoi!» E mi diede Venere. Quella sera, durante la cena di Natale, discutemmo dello spazio siderale. Papà ci spiegò gli anni luce e i buchi neri e i quasar e ci descrisse le particolarità di Beetlejuice, Rigel e Venere. Beetlejuice era una stella rossa sulla spalla della costellazione di Orione. Era una delle stelle più grandi che si potessero vedere nel cielo, centinaia di volte più grande del Sole. Splendeva luminosa da milioni di anni e presto sarebbe diventata una supernova e si sarebbe estinta. A me spiaceva che Lori avesse scelto un rottame, ma papà ci spiegò che presto voleva dire centinaia di migliaia di anni, quando si parlava di stelle. Rigel era una stella azzurra, più piccola di Beetlejuice, disse papà, ma ancor più luminosa. Anche lei apparteneva ad Orione, era al suo piede sinistro, il che sembrava appropriato, perché Brian era un corridore ultraveloce. Venere non aveva lune o satelliti né un campo magnetico, ma aveva un'atmosfera che in un certo senso era simile a quella della Terra, solo caldissima, circa 500 gradi o più. «Perciò», disse papà, «quando il sole incomincerà a spegnersi e la Terra diventerà fredda, tutti quanti potrebbero volersi trasferire su Venere per riscaldarsi, e prima dovranno chiedere l'autorizzazione ai tuoi discendenti». Ridemmo di tutti i bambini che credevano nel mito di Babbo Natale e durante le feste ricevevano solo un mucchio di giocattoli di plastica da 4 soldi. Fra qualche anno, quando tutte le loro cianfrusaglie saranno rotte e dimenticate da un pezzo, disse papà, voi avrete ancora le vostre stelle. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal romanzo di Jeanette Walls, Il castello di vetro. Rizzoli, 396 pagine, 17,50 euro.